Intanto ricordiamo che questo è l'annuario statistico sul 2010 e quindi non dobbiamo confondere con la situazione che avevamo a fine 2010 di ripresa nei confronti del 2009 con quella che abbiamo oggi e che viene regolarmente monitorato attraverso i nostri dati. Ma anche se guardiamo al 2010, come sempre in un grande paese come l'Italia, tra l'altro un paese molto eterogeneo, abbiamo come al solito luci e ombre. Nel 2010, ricordiamolo, le imprese soprattutto esportatrici, come voi avete ricordato, stavano recuperando rapidamente i livelli antecrisi delle esportazioni, ma non lo avevano ancora raggiunti questo livello antecrisi. Nel corso del 2011, prima della forte frenata che sta avvenendo nell'economia mondiale alla fine del 2011, invece avevano raggiunto e addirittura superato il livello anticrisi, soprattutto le piccole e le medie imprese. Abbiamo poi ancora nell'annuario una situazione delle famiglie italiane che, lo ricordiamo, nonostante la crisi non avevano visto aumentare gli indicatori di povertà, ma dobbiamo ricordare che gli indicatori di povertà sono basati sui consumi e che cosa abbiamo fatto come italiani nel corso degli ultimi anni? Abbiamo ridotto il risparmio per continuare a tenere su il nostro livello di consumi, quindi è chiaro che indicatori basati unicamente sui consumi non avevano mostrato quella grande caduta, ma è naturale che questo elemento è insostenibile, come infatti... Cioè tu erodi un po' il tuo risparmio, me lo fai per un anno, lo fai per due anni, poi a un certo momento vai a tagliare i consumi, che questo è il problema che avremo l'anno prossimo, oltre che quest'anno. Io credo esattamente che il paese avesse in qualche modo stimato, valutato che la crisi fosse un fatto puramente temporaneo e quindi in questa situazione gli economisti ci insegnano che uno mantiene i livelli di consumo e ritira risparmio sperando di poterlo riaccumulare successivamente. Ora che ci rendiamo conto che il 2012 sarà particolarmente difficile, il rischio vero è di un, come si dice in inglese, overshooting, cioè di un eccesso di reazione con una forte caduta del